X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Il 6 giugno Vodafone, il colosso inglese delle telecomunicazioni, pubblica sul proprio sito un documento di 88 pagine in cui fornisce una serie di dettagli sulla sua cooperazione con 29 governi a cui da anni fornisce l'accesso alle conversazioni dei propri clienti senza che questi ne siano a conoscenza. 800 24 00 24 oppure 349 38 6666 per gli sms. Vodafone rompe il silenzio e denuncia. Alcuni governi controllano direttamente gli utenti attraverso una rete di cavi che permette di ascoltare le conversazioni. Buongiorno dottore, è possibile, se io posso spingere per due persone con l'anese da mettere nelle commissioni dilettanti e DC? Spingo. Va bene, spingo, va bene. Io troverei giusto questo, è che tu entrassi in quel maledetto processo e dicessi quello che dicono di mio marito non è vero. Il data gate continua a far discutere, sarebbero state 46 milioni le telefonate intercettate in Italia dal dicembre del 2012 al gennaio del 2013. The bottom line is that people around the world. Voglio chiarire una cosa, continueremo ad ottenere informazioni sugli altri governi come loro fanno con noi e non chiediamo scusa solo perché noi lo facciamo meglio. Barack Obama non si scusa e non fa passi indietro. Sui programmi di sorveglianza della National Security Agency il presidente mette paletti ma rivendica quei programmi sono necessari a partire dalla raccolta dei metadati. Vodafone, con un suo rapporto ufficiale, fa sapere che le agenzie governative di un gruppo ristretto di paesi hanno accesso diretto alla sua rete, potendo così ascoltare tranquillamente le telefonate degli utenti. Giuliano Tavaroli, ex responsabile della sicurezza di Telecom Italia e di Pirelli. Ecco, Vodafone è stata la prima società di telecomunicazioni che ha deciso di pubblicare un report di questo tipo. Perché, secondo lei, l'ha fatto? Beh, innanzitutto per una grande operazione di trasparenza che dichiara, spera, apra a tutti gli altri operatori che pare si stiano muovendo in questa direzione. Ma perché proprio adesso? Ma uno potrebbe fare come al solito un'analisi un po' dietrologica, perché stanno per arrivare altre rivelazioni o semplicemente perché, come in altri casi, il costo per gli operatori sta diventando importante per sostenere questa attività al servizio della sicurezza dei paesi. Quindi questa mossa di Vodafone può voler sollecitare i governi a prendersi più responsabilità e a pagare anche di più? Direi decisamente di sì, ma anche assumersi le responsabilità. Nel rapporto di Vodafone, dove precisa che tutte queste attività nei 28 paesi sono principalmente fatte in modo legittimo secondo le leggi del paese, poi il veleno sta nella coda, dice però attenzione se i paesi che non nomina accesso diretto ai dati. Ecco Tavaroli, quali sono i paesi che non nomina, che hanno accesso diretto ai dati? Io credo che se li nominasse ci sarebbero grandi sorprese. Non possiamo solo dire che sono i paesi canaglia, no? Come qualcuno ha ipotizzato. Secondo me ci sono ragioni di Stato che anche altri paesi, forse anche occidentali, hanno questa facoltà. Forse o anche? Anche. D'altronde lei sa che il vecchio schema, no, tanto vituperato dello spionaggio, adesso diventato i Five Eyes, verso cui si è scatenata la Cina, quindi ormai la lotta per spionaggio e contro spionaggio sui dati è diventata una battaglia, direi, centrale rispetto alla sicurezza dei paesi, all'economia e anche all'influenza. E si svolge soprattutto dove? Nel cielo, sui satelliti, nel mare? Ovunque, ormai si svolge. I dati sono tutti intorno a noi, questo sembra un po' la pubblicità di una nota banca. Le informazioni sono tutte intorno a noi e quindi tutte queste informazioni sono oggi importanti, anche se ovviamente sono sempre più vanno utilizzate di ciascuno di noi. Appunto, cioè. Ecco, dottor Tavaroli, ma qual è il paese secondo lei che spende di più per la corsa alla raccolta di questi dati, queste informazioni? Nella loro trasparenza gli Stati Uniti danno i dati, insomma parlano di 50 miliardi di dollari per tutto quello che è l'intelligence ufficiale, tradizionale, elettronico, militare. E in Europa? In Europa, l'Inghilterra, immagini che solo... La vecchia tradizione dei servizi segreti inglesi? Assolutamente. assolutamente. Il loro centro di spionaggio elettronico spende 1,5 miliardi di sterline, che sono tre volte l'intero budget dei servizi di sicurezza italiani. Accidenti. Ecco, senta questo piccolo brano di un film di successo, La vita degli altri. Ore 23.04. Laszlo e CMS scartano i regali. Subito dopo è intuibile che abbiano rapporti sessuali. Ah, questi artisti. Loro se la spassano. Sono molto più contento quando mi mandano a controllare artisti invece dei preti o quegli apostoli della pace. Laszlo concorda sul divieto di espatrio imposto ad Hauser. Ore 19.32. Niente di particolare da trascrivere. Ecco, questo capitava nei paesi dell'est prima che cadesse il muro di Berlino, sembra preistoria. Ma è preistoria. È preistoria di un'altra epoca, dove a ogni individuo corrispondeva un paio di orecchie. Oggi a milioni di individui corrispondono programmi di intelligenza che possono addirittura predire, non capire cosa sta succedendo, ma ipotizzare cosa succederà. Ecco, dottor Tavaroli, ma lo spionaggio industriale è una maschera per nascondere attività di intelligence dei singoli paesi o una parte essenziale? Direi che è diventata la parte essenziale. Tant'è vero che ormai Stati Uniti e Cina hanno, come si dice, sono a via i guantoni. È un modo non indifferente per esercitare influenza, per ridurre i costi banalmente sulla tecnologia, per limitare la capacità di innovazione di intere economie. Purtroppo questi sono dei temi che noi sottovalutiamo in modo abbastanza clamoroso. Ecco, dottor Tavaroli, ma gli strumenti di selezione delle parole chiave, le parole pericolose, come funzionano? Ma queste sono ormai tecnologie che risalgono al vecchio Echelon, ormai non si usano solo più vocabolari, si usano addirittura algoritmi di predizione che imparano, capiscono il linguaggio, quindi motori di analisi semantica che comprendono il senso di ciò che noi stiamo dicendo. Tant'è vero che quello che si chiama il web semantico 3.0, quindi ormai anche i vocabolari servono. Ma siamo già arrivati oltre. Ma web semantico 3.0, me lo spiega meglio? Beh sì, sarà che sostanzialmente noi parleremo il linguaggio naturale con tutto quello che ci circonda, quindi parleremo il nostro linguaggio naturale, il web attraverso forse neanche più il computer, forse neanche più il telefono, risponderà e ci dirà le informazioni che noi chiediamo. E attraverso cosa? Né telefono né computer? Qual è la tecnologia che non conosciamo e che è già in opera? Quello che si chiamano i wearables, gli oggettini che porteremo cuciti dentro i nostri abiti, dentro le nostre macchine. Immagini che ormai le nuovi modelli di autovettura escono con la connessione wifi disponibile sulla macchina, il collegamento in tempo reale dell'autovettura. Alcuni scienziati di università americane hanno dimostrato che è possibile, ad esempio, sabotare un'auto attraverso questa connessione in rete. Quindi sembra veramente talvolta di voler tenere la sabbia con le mani, la tecnologia corre più veloce della sicurezza e ovviamente siamo sempre all'inseguimento di modelli per controllarli. Molto lontani. No, beh, noi mi pare di capire non ci siamo proprio in questa gara. No, non siamo in questa gara, non siamo in questa gara perché ci vuole una sensibilità, anche se spezziamo una lancia, abbiamo dei grandissimi ingegni, delle bellissime nuove aziendine, start-up che nascono, ma il paese non sostiene anche finanziariamente questi nostri geni che pure abbiamo. Ecco, ma questa operazione, dicevamo, di Vodafone, secondo lei è la prima di una serie di operazioni di trasparenza da parte di altri gruppi che hanno appunto paura che vengano fuori notizie? Sì, da un lato. E poi in Stati Uniti era già stata anticipata da Verizon. Quindi a livello di Stati Uniti, Vodafone è la prima che la fa globale su tutti i paesi dove è presente, con i loro 400 clienti. È un'operazione verità che io penso anche possa anche voler come dire, tutelarsi e rendere credibili i codici etici, ma anche tutelarsi da azioni dei consumatori. Certo. Ecco, ma in alcuni casi i governi, racconta Vodafone, l'abbiamo detto, hanno accesso direttamente ai dati collegandosi ai cavi dei network degli operatori telefonici. E questo, dicevamo, perché le legislazioni di certi paesi lo consentono? O le legislazioni, ovviamente, che sono tutte sottoposte poi alle forme di segreto di Stato, o semplicemente perché è tecnicamente possibile. Possibile. Tenga presente che si chiamano la raccolta di dati, qualcuno dice a strascico, no? Quindi certo. Prendo tutto quello che passa. Certo. E faccio crescere in maniera esponenziale dei grandi data center dove tutte queste cose vengono lì archiviate in attesa che possano essere poi essere utili quando qualcuno diventa magari significativo, o anche, importante. O anche quando, come succede, un attentato assolutamente imprevedibile come Boston viene poi risolto in poche ore perché erano già presenti le informazioni nei sistemi. Quindi c'è anche il risvolto positivo. Ecco, certamente, ma avere sì. La possibilità di collegarsi ai cavi significa poter ascoltare quindi tutte le conversazioni sostanzialmente. Ma anche selezionare tutti i flussi di dati, tutte le identità, le attività relative a internet, tutti i flussi finanziari che passano da Swift, in realtà di selezionare tutto quello, filtrare tutto quello che riguarda oggi il mondo digitale. Ecco, ma i dati che Vodafone ha dato alle autorità giudiziarie italiane sono metadati? Dipende dalle richieste. Ecco, certamente, ma che differenza c'è fra i dati reali e i metadati? È come dire, una, guardare un film in diretta e fermarlo con Sky On Demand e analizzarlo dopo. Sostanzialmente Okay. Il tema è la moviola, operazione moviola. Ecco, ma l'operazione di Vodafone è legata alla vicenda di WikiLeaks di Snowden? Beh, sicuramente l'Inghilterra è un grande player nelle attività di intelligence economico, elettronico, nel gruppo dei cinque paesi che ormai scambiano apertamente queste informazioni. Chiaramente Snowden ha cambiato le regole di questa guerra e l'Inghilterra e Vodafone è un leader delle telecomunicazioni in quel paese, quindi ha preso una posizione politica. Sono assestati, ecco, una posizione politica nel senso? Ma nel senso di dire noi siamo obbligati e nell'interesse dei cittadini che vengano fatte le intercettazioni, vi diciamo quante sono diventate. Certo. Diciamo quanto questo strumento vi riguarda, ecco. Ci riguarda tantissimo e infatti le chiedo come ultima cosa, ma siamo quindi a un punto di svolta sul tema dei dati fra sicurezza e privacy dei cittadini, quella linea sottile che oramai non si capisce più dov'è. Ma se io dovessi dare un'indicazione ai suoi ascoltatori, la linea sottile è data da la privacy, laddove i miei dati personali non vengono venduti e non vengono utilizzati per scopi non di giustizia. Questa è la grande discriminante, perché noi ad esempio c'è una grande battaglia che sfugge più sulla privacy, le regole della privacy fra Europa e Stati Uniti, perché negli Stati Uniti esiste un fenomeno che è quello dei data broker, che da noi è vietato, che vende interi trillion di dati sanitari, del credito, è certo, un miglior offerente. Perché sono un marketing già strutturato. Esattamente, che poi consente attività di analisi ultra sofisticate sui comportamenti, sui gusti, sui desideri, tutto. Ma anche sull'andamento della domanda sanitaria, che è il grande mercato del futuro. Certo. Se io dovessi dire dove si muoverà l'illecito e l'uso a scopo economico dei dati, direi immediatamente. Infatti ci dicevano proprio l'altro giorno che nel mondo della sofisticazione, della costruzione, diciamo così, delle medicine, la criminalità organizzata sta entrando molto molto potentemente. Beh, ma certamente non sfugge a nessuno che se prendiamo qualsiasi bilancio pubblico dalle nostre paesi che invecchiano, la voce più grande è la sanità. Certo. Ecco, un'ultima cosa, tutto questo sarà l'ennesima patata bollente che la politica forse ha intenzione di ignorare o comunque... Ma sì. Io direi che anticipo, come dire, la sua domanda in cui era già implicita la risposta. La politica mi sembra che non abbia nessuna intenzione di prendere questa patata bollente. Certo. L'ha guardata da lontano, ha detto bene. Vabbè, e la vediamo cosa capita. Vediamo cosa capita. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. L'SMS, un nostro ascoltatore abituale, Enrico dalla Grecia, ci scrive: nel romanzo Trappola a New York questo sistema di spionaggio era già descritto. E Paolo ci scrive: Orwell aveva visto giusto, una sola parola inquietante, inaccettabile. Ma in realtà il mondo va in quella direzione. Come mai, secondo te, Pietrangelo, la denuncia di Vodafone in realtà non è stata così tanto, come dire, amplificata e valutata per l'enormità del contenuto? Perché la trasparenza altro non è che il cemento dell'impostura. È una catena attraverso cui il sistema controlla e cataloga le nostre esistenze. Se possiamo immaginare un parallelo, così come i prodotti nel supermercato hanno delle fibre ottiche, così noi siamo controllati, catalogati attraverso un meccanismo. E possiamo anche immaginare, per esempio, un reality che prende 10 esistenze a caso e, studiandone le relazioni, i contatti, i rapporti, attraverso precisi algoritmi, arbitrari se vogliamo, ma comunque legali proprio perché voluti da questo sistema di controllo, può trasformarli immediatamente a proprio piacimento in terroristi, in banditi, perché su ognuno di noi... Sante. Quello difficilmente, dall'algoritmo del santo non c'è ancora. Difficilmente lo possono fare, perché, perché il fatto stesso che il sistema di trasparenza sia così occhiuto non ha altro significato che quello di controllarci e pilotarci a proprio piacimento. Però ci hanno parlato poco, Mario, di questo fatto, di questa denuncia di Vodafone, che insomma è abbastanza clamorosa. Beh, tu cosa ne pensi? Ma intanto parliamo poco o niente delle cose importanti, diciamo. Il dibattito pubblico italiano è ridotto a ground zero o quasi niente. Parliamo di robetta, infatti mi annoia parecchio. Ma fate queste considerazioni. Ti racconto un fatto personale, un episodio. Nel 2010 ero alla Silicon Valley, a Singularity University, che è uno dei forum più importanti dove si discute delle nuove tecnologie e della loro crescita esponenziale, e mi viene proposto di fare test del DNA molto particolare, che avrebbe potuto predire le mie aspettative di vita sostanzialmente, e anche di quali malattie probabilmente morirò. A un certo punto ho detto: ma lo faccio o non lo faccio? Lo faccio o non lo faccio? Poi ho pensato: no, non lo faccio, perché c'è un tema, perché i dati vengono conservati, e se i dati finiscono per sbaglio, per errore, nelle mani di un assicuratore, chi mi fa più un'assicurazione sulla vita se sa quando muoio? Era una delle clausole previste. Accidenti. Ecco, dottoressa Germana Tappero Merlo, lei è esperta di sicurezza internazionale, PRISM, che è il programma di sorveglianza digitale degli Stati Uniti. In due parole, come funziona? Buongiorno Minoli. Buongiorno. Allora, PRISM è un programma che ha completo e minuzioso di intercettazione, analisi e conservazione di questi metadati di cui parlava appunto Tavaroli, cioè tutto quello che passa attraverso le email dei grandi motori di ricerca come Google, Yahoo, Facebook, Skype e così via. Quindi attraverso queste porte di accesso riservate la NSA ha la possibilità di attingere a questi dati. E quindi perché controlla specificatamente questi dati? Diciamo che solo nei casi sospetti si accede, diciamo, alle conversazioni, però ecco che comunque c'è la possibilità, per quanto questi server abbiano negato questa possibilità, in realtà sono vincolati per legge americana a dare informazioni, quindi c'è assolutamente. E Tempora, che è in mano ai servizi segreti inglesi, invece come controlla le informazioni? Beh, Tempora, di cui aveva già anche parlato WikiLeaks nel 2011, quindi non è una novità, agisce con un programma di tecnologia MEMS 3D, che è una cosa molto tecnica, molto sofisticata, di soluzioni ottiche, opera sul cablaggio sottomarino, cioè questi cavi ci sono, per dare un'idea, 550.000 chilometri di cavi sottomarini che trasportano queste informazioni. Ecco, ma sull'Oceano Indiano, per esempio, quelli che sembrano i nemici del traffico, cioè i pirati, tutti pensano ai pirati, una cosa tremenda. Sì. Invece Si dice che qualcuno li utilizza perché servono per militarizzare, inseguendo i pirati e garantendo il traffico marittimo, servono per militarizzare le rotte dell'informazione. Quindi siamo nel fantatutto, è vero? Ma diciamo che è una lettura affascinante, un pochettino complottistica, anche perché se deve esserci l'azione di typing cosiddetta, cioè di carpire informazioni dal cablaggio sottomarino, non avviene in alto mare o là dove operano i pirati, ma nella zona cosiddetta last mile, cioè dove fuoriescono questi cavi dal fondali e raggiungono le stazioni terra. Quindi è della zona più delicata e quella viene... Quindi i pirati non aprono la strada alla militarizzazione? No, al limite quella delle rotte commerciali, ecco, quindi ci sarebbe tutto un altro discorso da fare, molto più... Insomma, complicato. Mi sembra che sia un po' vero, un po' no, insomma, un po' vero anche, però. Può essere. Diciamo. Vabbè, che siamo... è una lettura, come dico, affascinante, ma sì, poco realistica. Sì, poco realistica, però dice che può essere. Ma la guerra, no, ma capisco che ha dei vincoli, ma la guerra di intelligence tra Cina e Stati Uniti si fa ancora sui satelliti oppure quella è come il film? No. Come la vita degli altri? Ma allora, guardi, dai satelliti ormai passa poco. Come dicevamo prima, le grandi informazioni, soprattutto quelle economiche, passano attraverso questi cablaggi sottomarini. Per dare un'idea, di informazioni economiche, commerciali, finanziarie, transitano giornalmente 10.000 miliardi di valore di informazioni, quindi puoi immaginare come sia importante accedere a queste informazioni, e avviene là fra Cina e Stati Uniti, è anche un sistema, ecco, di confronto. Insomma, vince la Cina, vincono gli Stati Uniti, Tapparo. Stiamo parlando di tecnologia americana come leader, quindi ancora gli americani. Ecco, 800 24 00 24, 349 238 6666. Riceviamo molti sms, ma sostanzialmente tutti hanno la stessa impronta della paura, della sorpresa e anche del che fare per difendere la propria privacy. Ecco, Mario, secondo te è persa la battaglia della privacy definitivamente? Insomma, deve ridefinirsi, sì. Insomma, che beh, cosa è privacy? Come la immaginiamo è finita, ne sta cominciando un'altra. C'è un vecchio detto che si usa tra le spie: il miglior modo per avere segreti e non avere segreti, quindi massima trasparenza in tutto. Poi è chiaro che è un ambiente completamente diverso. Faulkner oggi non scriverebbe il suo saggio sulla privacy perché sarebbe completamente antistorico. Nel momento in cui tu ti colleghi a Google Chrome, la tua privacy è finita, certo. Punto. Ecco. La notizia, il cosiddetto universo della libertà è il più totalitario in assoluto. Avete presente, tutti quanti l'hanno subito, no? Come è sempre più invasivo, sempre più offensivo, certo, il controllo, per esempio negli aeroporti. Se ne inventano sempre di nuove di regole. Infatti è meglio andare in treno. A parte che è meglio andare in treno. Dio ce ne scampi, comincino a fare i controlli pure sui treni o sulle navi. È una cosa che veramente... ha dell'incredibile, anche perché non capisco come mai l'investimento delle tecnologie proprio nei controlli aeroportuali sia così efficiente, così straordinario. L'investimento sulla paura, la paura delle persone. È il più grande affare, assieme a quello della privacy mancante. Ecco, la notizia in 3D, come sempre, è stata curata da Sara Tardelli, pubblicità. Mix 24. Una collana scintilla per terra, una mano l'appoggia più su, vicino al telefono, nell'oscurità. Poi due orecchini con un orologio si aggiungono a quel che c'è già. Si avverte il segreto di un'intimità. Una... Attento all'intimità oggi, però. Perché lo sferragliare dei vagoni è come picchiare sui tasti di un pianoforte, quindi sono giri di giostra, un friggere di bagliori e poi la descrizione, appunto, scintillano collane, gli orecchini, un orologio, si avverte il segreto di un'intimità. E una di queste notti, dice Paolo Conte, c'è sempre una donna che arriva e si sa, intanto è la felicità. Grande, grande Paolo Conte, due sms di ottimismo, un buon motivo per aprire un allevamento di piccioni viaggiatori, non dice Claudio da Modena. Beh, hanno una grande importanza strategica nelle operazioni militari segrete, per forza, perché sono quelli meno controllabili. Esatto. Francesco Taurina invece dice: questo sistema serve anche a migliorare la nostra vita dal punto di vista commerciale e migliora la nostra sicurezza, forse anche troppo, comunque tante teste, tante idee. Le bolle. Saddam giustiziato all'alba, in Iraq esplodono le violenze. Ucciso in un blitz Osama Bin Laden, la conferma di Barack Obama. Mario, allora... Tempi andati, visto come passa... velocemente. È la storia. Beh, insomma, ieri abbiamo detto che c'erano le guerre dimenticate, abbiamo dato una notizia sull'Afghanistan e sull'Iraq, abbiamo detto attenzione perché in Iraq sta succedendo di tutto. Devo rettificare, l'Iraq sta è già successo e l'Iraq sta collassando letteralmente. E insomma, dopo quanti anni di intervento? 15, quanti sono? Siamo 2003, Afghanistan, è successo di tutto. Vabbè, sono 10 anni, quanti sono? Non mi ricordo più. Giovanni, la verità è che noi abbiamo un'intera un'area di più di 500 chilometri che è controllata dall'ISIS, che è lo Stato Islamico di Iraq e Siria, cioè un'organizzazione che vuole il califfato. E tutta la provincia di Nineveh. E Mosul, la seconda città del paese, praticamente è caduta nelle loro mani. Ma il dato, secondo me, incredibile, che dà l'idea del fallimento del nation building, è dato dal fatto che le truppe regolari che erano state addestrate e armate dagli americani si sono ritirate, se la sono data a gambe levate, e il premier iracheno al-Maliki ha dichiarato uno stato d'emergenza che non so che cosa servirà, cioè dovrebbero andarsi a riprendere Mosul per intenderci, però a Fallujah è successa la stessa cosa settimane fa e nessuno è andato a riprendersela. Adesso stamattina vedevo che addirittura sono alle porte di Kirkuk, quindi qua sta succedendo una cosa molto grave, molto grave. L'Iraq sta completamente andando in pezzi, non si sa neanche se resiste il Kurdistan a questo punto a un assalto del genere, ecco. E si sono presi tutte le armi che gli americani avevano fornito alle truppe regolari, ripeto, cioè qua il post guerra e gli sviluppi degli ultimi mesi sono drammatici. Che si fa su questa cosa qua? Vorrei ricordare che l'Iraq è uno dei principali produttori di petrolio del mondo. Accidente. Non è proprio un paese sul quale, diciamo, non abbiamo degli interessi come Occidente, intanto, alla sua stabilità, diciamo. Intanto dal tweet ci chiedono chissà cosa ha visto oggi in metropolitana Buttafuoco. Boh, cosa hai visto? Sferragliare. Hai visto sferragliare dei vagoni, trasformarsi in un pianoforte. Bolla. Sei sicuro di non andare troppo veloce? Se non ti fidi puoi sempre controllare. Allora perché la polizia ci insegue? Ma non saprei, dopotutto io sono un computer, non un indovino. Allora, Supercar, no? Ve la ricordate? Oggi in regia abbiamo fatto di tutto. Beh, Google, no, stavamo parlando dei giganti dell'high-tech. Google è il gigante, il titano. Ha comprato per mezzo miliardo di dollari Skybox Imaging. Uno dice, vabbè, a cosa gli serve? È roba del satellite. Transazione per cassa, tutta. E a che cosa serve? Sì, a far meglio le mappe, certamente, ma in realtà c'è il progetto di auto senza pilota, di cui abbiamo visto, ne avevamo già parlato, di cui abbiamo visto noi i primi embrioni, insomma, quella non roba troppo comincia... sofisticato. Mario, ci dicono che sei troppo sofisticato. Per favore, abbassa il livello. Non lo so che devo fare. E quello è il Financial Times. Financial Times. No, magari che quello è Severnini. Non sono io. È possibile. Insomma, settimane fa si è comprata Titan, che produce droni a energia solare. Adesso un'azienda che di fatto fa osservazione satellitare, ma chissà se serve solo a fare le mappe e a guidare meglio l'automobile. Proviamo a tirare il fiato con la nostra quota rosa Sara Tardelli, che ieri ha fatto un trionfo. All you need is love. Se l'amore fa bene ed è tutto quello di cui abbiamo bisogno, caro Mario, sarà provato scientificamente. Tutto inizia all'Università di Berkeley, quindi è roba tua. Qui hanno condotto uno studio, per ora su dei topolini che, ahimè, in questo caso sono insostituibili, e hanno scoperto che cosa? Che l'ormone dell'amore, della fiducia, attiva le staminali. Cioè, iniettando l'ormone dell'amore in cavie con delle lesioni ai muscoli, queste innanzitutto guariscono, ma anche molto più velocemente, perché appunto si attivano le staminali che altrimenti non farebbero nulla e che a loro volta riparano il muscolo. Cosa significa? Che se questo meccanismo funzionerà anche negli uomini, avranno scoperto una nuova generazione di terapie per combattere l'invecchiamento dei muscoli. Amare fa bene alla salute. Altro che la palestra, Mario. Capito, Presidente Mario, Minoli, chiedo la parola per fatto personale. Dica rapidamente. Professoressa Tardelli, mi dica. Ma cosa succede a quelli che hanno subito lesioni al cervello per amore? Chiediamolo ai topolini. Sai che le staminali, ognuna fa una cosa diversa, dovranno arrivarci. Qui abbiamo un esperto. Come succede? Che l'amore riguarda il cuore, non il cervello. Bravo, un temone. Bravo. Abbiamo introdotto un temone destro, ventricolo sinistro. Mamma mia. La soave Maria Elena Boschi, ministro delle riforme, si emancipa dall'estetica piritolla delle Leopolde, cioè si sottrae alle icone imposte dal potentissimo Luigi De Siervo, il direttore generale ombra della RAI, che decide e veste il regime, cioè chiodo alla Fonzi per Matteo Renzi, per esempio tacchi ghepardati per lei, e dunque alla festa dei giovani turchi del Partito Democratico il ministro, la soave Maria Elena Boschi, si esibisce, si fregia, s'adorna, si svela, cioè si vela con la maglietta di Togliatti, cioè che non sarebbe la canottiera di Palmiro, ma una maglietta celebrativa del migliore. Per un pelo ci siamo evitati quella di Che Guevara, ma non invece la prosecuzione dei soviet attraverso ritmate kalinke. E io che già pensavo Buttafuoco mettesse il coro dell'Armata Rossa, niente. Vai avanti con le bolle che ci prendiamo. Vai in campo. Maradona ha superato specialmente un avversario, due avversari, alla palla sul destro, gol di Maradona, splendido gol di Maradona, curazione stupenda, ecco che ha superato prima Baggio e poi Fenwick, poi il portiere, poi resiste al recupero da parte di Badger e segna uno dei più bei gol della storia di questo campionato del mondo. Beh, ieri anche io l'ho rivisto su Sky, la storia dei mondiali di calcio dell'86, tu l'hai vista, Giovanni? Visto. Bello. Vabbè, era un gran gol di Maradona, forse il più bello effettivamente, per introdurre che cosa? Chi lo vince il mondiale di calcio? Giovanni, tu che dici? Ma... Non lo so. Non si sbilancia. No, non mi sbilancio. Non abbiamo visto ancora neanche una partita. Troppo ma già è iniziato? Comincia. No, perché, no? È iniziato Sara, no? Adesso appena sentiremo Sara parlare dei mondiali vuol dire che siamo entrati in piena... In pieno ritmo mondiale. Sì. Perché noi, do una notizia, noi faremo da domani, faremo una rubrica di Sara Tardelli sui mondiali. Evviva. Sara, vero? Ma ti noi possiamo preparando? Intervenire? Certo. Sto studiando moltissimo. Ma mi raccomando. No, allora. Solo per dire che, vabbè, secondo Goldman Sachs, l'avevamo anche annunciato, il Brasile ha il 40% di possibilità di portare a casa il trofeo. Ma attenzione, torneo è corto, non è un campionato, giocare a casa può essere un problema. Secondo me la sorpresa è in agguato. Vedremo. Canzoniere. Bella o non bella, tu sei tiranna, come quelle che l'orgoglio della loro bellezza rende crudeli, poiché sai bene che il mio infatuato cuore, tu sei il gioiello più bello e più prezioso. Eppure, sinceramente, c'è chi, mirando, ti dice che la tua faccia non ha il potere di fare sospirare amore. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 per chi vuole rispondere, pubblicità. Mix 24. Ancora un salamino, Pietrangelo. Ascoltiamo il frammento. Valeria Bruni Tedeschi, premiata al David come migliore attrice, ha dedicato il premio a tutti gli amici e ai parenti che la sopportano. Allora, probabilmente anche a Sarkozy, immagino che in famiglia ne abbiano parlato, e però vince come migliore esordiente PIF, e però si prende anche il David Giovani, che ha assegnato dalla Banca Nazionale del Lavoro. Una volta sul palco, interpellato dal conduttore della serata, PIF, cioè Pierfrancesco Di Liberti, ha così dichiarato: lo dico o non lo dico, lo dico o non lo dico, insomma lo dico, ho fatto per 8 anni la Iena in TV e non posso non dirle. La Banca Nazionale del Lavoro non ha voluto produrre il mio film. Il miglior film, invece, è Il Capitale Umano di Paolo Virzì. È finalmente una vera consolazione dopo la sconfitta del Partito Democratico a Livorno. All'incontro con Giorgio Napolitano, prima della cerimonia, Virzì non può non avergli detto: «Compagno maestà, vi porto la sciarpa della curva Stalingrado». E insieme, ancora una volta, hanno ballato Kalinka. Io... Protesta formale dal Cremlino su questo. Sì, beh, assolutamente. No. Ma noi ecco, ci posso fare se qua fanno la prosecuzione dei Soviet in altra vetrina? Sì, ecco, ma... senti. Comunque, questo è il comunismo chic e oggi siamo a 30 anni dalla morte di Enrico Berlinguer. Dopo la pubblicità, dopo il giornale radio, racconteremo la sua storia. Intanto, adesso una breve testimonianza inedita della figlia Maria. La mia famiglia era una famiglia borghese di avvocati, molto antifascisti, mazziniani prima. Mio nonno è stato prima del Partito d'Azione e poi socialista è diventato, sì. Nella mia famiglia era abbastanza normale che ogni generazione facesse uno scavalco a sinistra, quindi non... Poi mio nonno era, con mio padre ha avuto un legame molto forte, di grande rispetto, affettuoso, quindi insomma credo che lo stimasse. Mia nonna Bianca all'inizio non credo che proprio fosse entusiasta l'idea che mamma si sposasse con un comunista, pure spiantato, quindi insomma. Io penso che il rapporto tra mio padre e mia madre sia stato tra alti e bassi una grandissima storia d'amore, anche perché appunto nata così con difficoltà, insomma, non... Certamente mamma l'ha proprio scelto papà, non è che se l'è trovato. Ecco, dopo il giornale radio racconteremo la storia di Berlinguer realizzata da Carlo Durante e in chiusura un'intervista di Marina Milone a Emanuele Maccaluso. Professore, professor Simonelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno professore. Sta bene? Sì, benissimo. Ieri sera ha trovato il canone da qualche parte? L'ho trovato moltissimo, però né Kalinka né Armata Rossa. Sentite no. Dov'era? Allora, professore? E allora è successo questo ieri sera. In politica si direbbe ingorgo istituzionale, perché la diretta dei David di Donatello, che sono secondo me un evento molto interessante, molto importante, che andrebbe valorizzato dal servizio pubblico, la diretta è stata scalzata da un'altra diretta, quella per la festa dei 100 anni del CONI. E quindi è finita su Rai 1 in tarda serata registrata, ma era andata in onda in diretta su Rai Movie. E quindi insomma il canone era prima di tutto su Rai Movie ieri sera, perché questa manifestazione, che quest'anno era particolarmente significativa, perché insomma tra Capitale Umano e Grande Bellezza, un film con l'Oscar, un film che ha suscitato entusiasmi e polemiche, insomma era come un derby, e quindi insomma una bella serata. Se non che c'è un problema. Che quale? Il problema è quello della conduzione. La conduzione è un po' un'imitazione degli Oscar. Ci vogliono sempre un uomo e una donna che fanno gli spiritosi. Io posso dare un suggerimento. Non c'è bisogno di fare gli spiritosi. Si può fare una cosa gradevole, interessante, piacevole, senza quest'ansia di essere spiritosi, come hanno fatto i due, peraltro bravi conduttori, ma tutti all'inseguimento di questo modello Oscar. Siccome i David non sono gli Oscar, magari guardiamo oltre Alpe, guardiamo come fanno i César, guardiamo come fanno in Inghilterra, ma smettiamola di fare la brutta coppia degli Oscar. Comunque c'è una cosa per Mario. Tu parlavi della macchina senza guida, no? Una macchina senza guida, ci scrivono su un tweet. Sai che novità? In Italia sono almeno 50 anni che ci governano così. Chi è? Voglio l'indirizzo che poi ci scriviamo. Flaiano. Con Flaiano ho un rapporto, attraverso i libri. Senta, professore, ancora un pezzo ancora di canone? Sì. C'era dell'altro, è finito Gomorra. Ed è finito con una settimana, due giorni precedenti, in cui tutti sono intervenuti su Gomorra. Sì. È intervenuto ieri Saviano su Repubblica, è intervenuto Mazzetti sul Fatto Quotidiano lamentando il fatto che la RAI avesse perso Vabbè, Mazzetti fa lo stesso. Poi? È intervenuta Lorenza, lei, però nessuno, secondo me, coglie il problema. Il problema non è il bene e il male, la rappresentazione del bene. Perché non facciamo un discorso su Gomorra, sulle qualità e anche sui limiti estetici del prodotto, sui limiti culturali e sul valore culturale del prodotto? Mi sembra che siamo andati tutti lungo questa strada che non porta da nessuna parte. E a lei invece è piaciuto? No? A me così. Così. Sara volte. Tardelli è piaciuto moltissimo. Lo so. Qui a me anche, devo dire. Lo so, e nessuno sta con me. Sì, Buttafuoco è d'accordo no, con me. No, Buttafuoco d'accordo, è d'accordo con lei. D'accordo. Il professore ha sempre ragione, per mutuando via. Longanesi. Eccoci, professore, soddisfatto? Sono soddisfattissimo, sì. Vabbè, per i mondiali ha capito, faremo una rubrica speciale guidata da Sara Tardelli, lei sarà naturalmente della partita perché almeno potrà sfogare il suo tifo, potremo trovarci tutti uniti a gridare viva l'Italia. Secondo lei chi lo vince questo campionato? Guardi, io ho in mente uno scenario terribile. Dica. L'Argentina che vince il mondiale in Brasile. Per il Brasile sarebbe una cosa terribile, più ancora forse della sconfitta con l'Uruguay del 50 di cui tanto si parla in questi giorni. Io, se fossi un brasiliano, in questo punto toccherei tutto ciò che può portare bene e che può allontanare questo scenario che ho prefigurato qui. D'accordo. Perché... Sara, per te chi vince? No, io non lo so chi vince, come hai detto tu, però dico vince l'Argentina, che è la squadra più vecchia di tutto il torneo. Sarebbe interessante. Pietrangelo? Secondo me vince Veltroni, che sta scrivendo dei pezzi sul calcio, sulla stampa ogni giorno, e quindi lo... Vabbè, lui ha già vinto. Ha già vinto. Va bene. Allenatore, se non Presidente della Repubblica.